passa il vento oltre i pini e il mare, impasta odori, disperde parole, intreccia i capelli per poterti toccare, dimentica sempre il posto dove arrivare. Passa il tempo e un amico invecchiato sorride alla noia di un cuore spezzato. Per quale idea valeva morire? E ora che è vecchio vorrebbe persino ritrattare. Ma tu sei quel vento che gonfia il mare e cambia il tempo per non tramontare. Sei quell'idea per cui morire e tutti gli attimi da custodire. Passa di qua, amore mio, balleremo fino al mattino, fino a quel giorno in cui sapremo se è valsa la pena sfidare il destino. La pioggia torna sempre il sole, questo è il senso di ogni nostro dolore. Le stelle sono luci che non si spengono mai, sono i versi dei poeti, sono i sogni che ricorderai. Tu sei quel vento che gonfia il mare e inverte il tempo per non invecchiare. Sei quell'idea per cui morire e tutti gli attimi da custodire. Fermati qua, amore mio, ci abbracceremo fino al mattino per tutta la vita, tutto il calore, tutto il sapore di te. La pioggia torna sempre il sole, sempre il sole.